La situazione oggi a Gaza è catastrofica. Se partiamo semplicemente dall'aggiornamento delle vittime, ad oggi parliamo di circa 35.000 vittime palestinesi e un numero che si aggira intorno a 75.000 feriti, un numero che ovviamente ogni giorno aumenta. Il fattore primordiale di questa situazione catastrofica della striscia di Gaza, oltre ovviamente agli effetti del conflitto che ormai sono 7 mesi che si sta portando avanti, ma soprattutto è da ricercarsi nelle restrizioni israeliane imposte sui movimenti di beni e di persone dentro e fuori da Gaza City e dalle altre città della striscia di Gaza. Stiamo parlando ovviamente di una popolazione di circa 1.700.000 persone che prima della guerra erano distribuite nelle tre grandi zone urbane di Gaza City, Khan Yunis e Rafah. A seguito del conflitto, a seguito di ottobre, che è iniziato colpendo le zone urbane di Gaza e di Khan Yunis, registriamo che il 60% degli edifici ad uso abitativo sono andati distrutti, l'80% delle strutture commerciali ormai non sono più operative e la conseguenza lampante di questa distruzione è che l'80% della popolazione di Gaza è letteralmente scappata dai bombardamenti per andare a rifugiarsi nell'unica zona che in quel momento era ritenuta meno pericolosa, e quindi parliamo di Rafah. Quindi parliamo di circa 1.400.000 persone, 1.500.000 di persone che oggi vivono in un lembo della striscia di Gaza, ammassate una sopra l'altra, rifugiate in situazioni totalmente precarie. Quindi parliamo di campi tendati lungo la spiaggia o lungo le aree sabbiose, o in rifugi che sono stati allestiti in scuole o in altri spazi pubblici, oppure ovviamente a casa di altri familiari. Ricordiamo che i beni e i blocchi e le restrizioni da parte di Israele stanno limitando l'accesso ai beni di prima necessità. A Gaza parliamo di un contesto in cui ad oggi manca acqua potabile. Oggi parliamo di circa 1 litro a testa, 2 litri, massimo 4 litri al giorno a testa nelle giornate più fortunate. Acqua che ovviamente non è potabile e che è di una qualità assolutamente fuori standard. Manca cibo, a Gaza manca cibo, mancano verdure, manca frutta, mancano alimenti freschi, troviamo solamente cibi in scatola che sono reperibili attraverso la distribuzione degli aiuti umanitari o attraverso il mercato locale. Al momento la popolazione di Gaza ha una dieta poverissima e si stima che circa 1 milione di persone oggi registra livelli catastrofici di denutrizione. Parliamo appunto di un contesto Gaza in cui c'è una totale mancanza dell'erogazione dei servizi di base. Sono 26 gli ospedali che sono stati distrutti e le scuole hanno subito più o meno la stessa fine. 625.000 bambini oggi sono fuori dal sistema scolastico. L'80% degli edifici scolastici sono stati distrutti dai bombardamenti e il restante sono utilizzate per accogliere gli sfollati in questi giorni. Ovviamente in questo contesto le persone più colpite sono le donne, i bambini, le persone anziane, le persone con disabilità. Le donne sono vittime ovviamente di questo sovraffollamento di spazi, mancanza totale di spazi privati. Ovviamente sono in questo contesto facilmente esposte a promiscuità, abusi e a violenze. I bambini, oggi si parla di circa 17.000 bambini non accompagnati che sono stati separati dalle loro famiglie, e su 1.700.000 di sfollati oggi 1 milione sono bambini che necessitano di supporto psicologico poiché sono stati sradicati totalmente dalla loro routine, dalla scuola, dagli amici, dai familiari. Le persone anziane che ovviamente oltre a subire le conseguenze delle condizioni di sfollamento in cui sono costretti a vivere hanno anche bisogno di trattamenti medici e di assistenza continua. Parliamo ovviamente di un contesto in cui mancano anche le medicine, mancano i medici e mancano strutture che siano in grado di fornire supporto medico alle persone. Da ieri mattina Rafah è stata oggetto di una ulteriore incursione militare che era stata comunque programmata e annunciata da diversi giorni. La popolazione stessa che è rifugiata appunto nella zona di Rafah è stata contattata nei giorni passati dalle forze militari con la richiesta di spostarsi nella cosiddetta zona umanitaria di Al-Mawasi. Si prevede più o meno che questa evacuazione di massa avrà un impatto a oggi su almeno 100.000 persone. Un'evacuazione di massa di questa portata che non è possibile prevedere in nessuna condizione di sicurezza e che provocherà ulteriore sofferenza in un momento in cui, lo ricordiamo, la vita di 1.500.000 di persone, tra cui 600.000 bambini, è a serio rischio. Si prevede che attraverso questa incursione che le forze militari stanno portando avanti da Rafah, si prevede che ulteriori famiglie saranno separate e che le basiche condizioni di igiene, di salute e di sicurezza salteranno, esponendo ancora una volta gli sfollati ad ulteriori rischi e a esposizione a condizioni di vita precarie e inaccettabile. Ricordiamo che la popolazione colpita dalle recenti incursioni si è già spostata varie volte, 6, 7, 8 volte da Gaza, da Khan Yunis. La conseguenza è che alle persone di Gaza viene chiesto ancora una volta di evacuare attraverso infrastrutture distrutte e strade contaminate da ordigni inesplosi, perché ricordiamoci, ci sono mine e ordigni sparsi ovunque. Quindi la popolazione sfollata che si sta spostando in questi giorni è estremamente esposta a un gravissimo pericolo. Soprattutto non ha un posto sicuro dove andare, considerato che al momento non esiste un solo angolo sicuro di Gaza dove poter vivere o dove potersi temporaneamente installare. Il concetto di zona sicura è totalmente inesistente, perché le aree precedentemente designate come tali, come zone sicure, sono state prese di mira durante appunto le operazioni militari che sono al momento in fase di esecuzione. Il transito degli aiuti umanitari al momento è controllato interamente dalle forze militari israeliane. I valichi, i due o tre valichi che dovrebbero essere usati per garantire l'ingresso dei camion, sono al momento presidiati dalle forze armate, che decidono in maniera totalmente arbitraria la modalità e i tempi di apertura. In questo contesto la chiusura o la riduzione della funzionalità dei crossing points è catastrofico per poter garantire un minimo, perché parliamo sempre di minimo supporto umanitario. Sembra dalle notizie che stamattina abbiano riaperto il valico di Kerem Shalom, ma non è chiaro se poi tutta la quantità dei camion che sono in fila in attesa di essere appunto autorizzati effettivamente sarà garantita nel prossimo giorno. E si stima che comunque la quantità degli aiuti umanitari che sono contenuti in questi camion è totalmente insufficiente a coprire gli eventuali bisogni. Al momento ci sono decine e decine di camion che sono pieni di aiuti in fila al valico, in attesa che la loro entrata venga appunto autorizzata. Quando però verrà garantito lo scarico di aiuti, ricordiamo che stiamo operando in un contesto dove le distribuzioni non avvengono in modo ordinato, dove appunto i camion delle organizzazioni, compresa la nostra, scaricano i pacchi e gli scatoloni contenenti gli aiuti in condizioni inaccettabili, sotto file di gente che affamata, che si ammassa una sopra l'altra per poter riuscire a ricevere una qualsiasi forma di aiuto. Ne approfitto per ricordare ancora una volta che le condizioni in cui i nostri operatori umanitari, quelli di WeWorld, ma anche gli operatori umanitari di tutte le altre organizzazioni che sono impegnate dal 6 ottobre e anche da prima della guerra nella striscia di Gaza, sono inaccettabili. I civili e gli operatori umanitari, compresi coloro che si trovano all'interno delle zone sicure e di evacuazione, che sono chiaramente contrassegnate, sono sistematicamente e deliberatamente presi di mira. E ricordiamo che questo costituisce una violazione del diritto internazionale, che vieta severamente qualsiasi attacco diretto e che abbia come bersaglio i civili, i beni di carattere civile e le operazioni umanitarie.